Chissà se le stelle, per esprimere un desiderio, aspettano che cada la Terra. C'è dell'amore nell'aria, speriamo che non si sciolga. Chiudi la porta, muoviti piano, fa niente se ristagna un po'. Cosa ho schiacciato? Una merda. Se vuoi distruggo la scarpa. Non c'è bisogno di esagerare. Porta fortuna al nostro amore. Se n'è andata con il mio amore, un cocker mi ha spezzato il cuore. Scusa Enzo, sì. Mi sembrava fosse stato detto chiaro, limpido, sapevo. Palese, che si usava la parola escremento invece che quella parola c'è. Padre Buozzi, come fa a fare no, rima con scarpa? Non mi interessa. Io, Marcolino. Io sono parroco, sì. Conosco bene quali sono i limiti delle umane virtù e delle umani peccati. Padre Buozzi, la parola merda è più incisiva. Ma come ti esprimi? Ma sì. Ma è il modo di esprimere. No, nella testuologia moderna. Ecco, questo qui è il risultato a stare con questo musicista. Enzo, te me lo porti sulla brutta strada. Lei è un po' antiquariato. Sì, lei è un po' un trombone, Padre Buozzi. Ragazzi, allora, fate comunella, volete fare... Ma cosa c'entra la comunella? All'occhio, perché il signore guarda dall'alto.